difficile. Lo so. Però è meteo. Musica allo stato puro. Ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Madame e Monsieur, vi presento l'artista Gigi D'Agostino. Le Nouvelle Martel. Come? È bello. Come? È bello. È arrivato il folclorista, folclorista, Come? Mi riesci a capire se parlo in italiano? Yes and no. Qualcosa, poi la mano, tutto. Dai. Dov'è il vocalist? Sono qui, Non giocare sul comodino, alla console c'è Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non siamo qui a rigare i conchiglioni. In che senso? Beh, che te meni? Ma niente, così. Mangio un bel pasticcino che c'è Gigi D'Agostino. Dove sta la musica, ma esce. M2O. Frequenza. Benevolenza. M2O. È qui la festa. C'è la musica che pesta. Dov'è il vocalist? Boh. Chiamalo un po' che c'è da lavorare. Il cammino di Gigi D'Agostino è un programma un po' birichino. Non sai mai cosa ti aspetta, ma tu rimani all'ascolto, dammi retta. Agoso. Il cammino non lo puoi fermare, è il momento di ballare. Bogacci via questo. Fa stare fermi.

capirlo. Per me, amore, vuol dire aver incontrato te. Che stile, che passione, hai catturato l'attenzione. Ma chi è? Venerdì 15 settembre, discoteca Coconut, Capo d'Orlando, Messina. Muovete. Vi aspettiamo numerosi alla discoteca Plexus a Messina, sabato 16 settembre in via Don Blasco 77 alle ore 22. In console, Gigi D'Agostino. Poeta, pittore. Daniele Mondello, che spacca il tuo cervello. Spacca il tuo cervello, spacca il tuo cervello, spacca il tuo cervello, spacca il tuo cervello. Info prevendite 339-7100-422. Ci vediamo lì. Buon viaggio. M2O. M2O. Ero distratto. Cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Musica che unisce. Bello questo. Fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ma tu Gigi D'Agostino come? Eh? Io non lo conosco, mi hanno presentato mai. Ma dai! E sto scherzando. Dai. sono un uomo diverso, sono un po' perso. Ma questo è il mio universo. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Andiamo! Working for them every day. sorpresa all'improvviso e il sorriso sul tuo viso. Ma cosa? Ecco un suono all'improvviso e il sorriso sul tuo viso. No, no, no, non stai sognando, è Gigi Doug che sta mixando. Sì. È Gigi Doug che sta mixando. Sì. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Fammi una mixata, va. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Oh già già già già già già già già già già già già già già già già già già. That you are, how do you find a place?

piace passeggiare ovunque. Mi piace pasticciare con i miei colori anche fuori dal foglio. Mi piace guardare altrove. Mi piace esagerare. Rischiando di capire chi sono. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Arriva, arriva, Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino, musica che unisce, musica che unisce. Gigi D'Agostino. Ogni giorno ci gira intorno. Spettacolo questo. Dai e po' sulle mani. We'll be right back.

Cosa che c'è scritto qua? Tanto calore, ritmi, suoni dissociati. Ma che sta a fare? Ma che sta a giocare qua? Il cammino del dottore che ti dona tanto calore, ritmi, suoni dissociati, un po' strani ma arrangiati. Ma cosa? Ma perché? Va bene tutto, no? Ciao e grazie.